Effettivamente è vero che quel modo di prendere la vita lì è il migliore. Insomma, se no non ti salvi con in casa uno come Fabio, cosa faccio? Ma ho cercato di ammazzarmi 8 volte nel film. E lui prende questa piega. E questa piega, dicevo che l'ho presa anche un po' nella vita, mi aveva cambiato più la vita a loro due che forse non tutti i film fatti con Salvatore, ma ovviamente era una battuta. Quindi voglio dire, mi ha cambiato effettivamente molto la prospettiva, anche perché è un personaggio che non avevo mai interpretato, ho fatto tante cose. Cattivo, buono, cinico, rimbambito, però ottimista così non mi era mai capitato e devo dire che ha delle belle potenzialità l'ottimista, perché sembra un coglionazzo, invece c'ha il suo